Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Nuovo allarme di Confindustria, senza riforme, crescita dimezzata e il centro studi abbassa le stime per quest'anno. Consumi in frenata, conferma dall'assemblea annuale il presidente di Confcommercio che dice di fronte alla crisi chi evade sbaglia ma va ascoltato. Esami di maturità, seconda prova, fuga di notizie su internet e soluzione delle tracce in poco più di un'ora. Il garante della privacy avverte i telefonini sempre localizzati, con gli smartphone siamo tutti come Pollicino. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. In apertura dunque i dati economici di giornata, a partire dal nuovo grido d'allarme di Confindustria. Senza riforme la crescita dell'Italia sarà dimezzata. A confermare la stagnazione italiana arrivano anche i numeri di Confcommercio sui consumi, ne parleremo più avanti, nella stessa giornata nella quale è il capo dello Stato a lanciare un monito sui conti pubblici. Un abbattimento del debito pubblico nel quadro delle direttive europee, dice Napolitano, è un impegno ineludibile del nostro paese. Ma cominciamo dal centro studi di Confindustria e dal nuovo allarme. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Riforme credibili o crescita a rischio? È un forte allarme quello lanciato da Confindustria nel rapporto di metano sulle previsioni economiche. Gli industriali usano la metafora di una stella che non brilla per l'economia italiana e rivedono al ribasso le stime sulla crescita. Un PIL nel 2011 al più 0,9%, nel 2012 all'1,2%, in entrambi i casi due decimi in meno rispetto alle previsioni di dicembre. Per Confindustria è stato dunque un errore fidarsi con ottimismo superiore alla media dei primi segnali di rilancio. Senza riforme strutturali c'è il rischio di una nuova manovra economica da 18 miliardi di euro, ha detto la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ha raccolto così l'invito al rigore da parte del capo dello Stato. Sentiamo la sua voce. Noi siamo assolutamente d'accordo, come sapete lo diciamo da molto tempo, noi pensiamo che questa manovra vada fatta subito, deve essere una manovra di taglio di spesa pubblica, di strutturale come abbiamo detto prima, abbiamo preso degli impegni con la Commissione Europea, abbiamo preso impegni con il Parlamento italiano, quindi questa manovra va assolutamente fatta. Quando sento dire da qualcuno il Paese non può sopportare una riduzione di spesa pubblica di questo tipo, non è vero, lo stanno facendo tutti i Paesi, l'ha fatto la Germania in passato, lo stanno facendo in Inghilterra, quindi questa manovra va fatta assolutamente, quindi noi concordiamo totalmente con l'appello del Presidente Napolitano. Quanto ai dati sull'occupazione, tra il 2008 e il 2011 hanno perso lavoro 582.000 persone, ma senza cassa integrazione e strumenti di flessibilità, sottolinea Confindustria, i posti persi sarebbero stati oltre 1 milione. Bisogna alzare l'età pensionabile, contenere le retribuzioni pubbliche per Confindustria, ma anche riformare la giustizia. Una riduzione del 10% della lunghezza dei processi aumenterebbe infatti il PIL dello 0,8%. Ed a Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. E dicevamo, le parole del capo dello Stato sui conti pubblici, è un impegno ineludibile e urgente quello di rafforzare la sostenibilità finanziaria del sistema Italia attraverso un incisivo abbattimento del debito pubblico nel quadro delle direttive e delle procedure concordate in sede europea. Sono le parole che il capo dello Stato ha inviato con un messaggio all'assemblea annuale della Confcommercio, dalla quale, come dicevamo in apertura, arrivano numeri e stime che confermano la stagnazione economica, naturalmente a partire dalla crisi dei consumi, così il presidente di Confcommercio. Ne parliamo con Andrea Viali, che era lì. Buongiorno Andrea. Sì Alessio, dunque anche la Confcommercio rilancia l'allarme sulla crescita della nostra economia, anche i consumi delle famiglie rallenteranno nell'anno in corso, facendo registrare un incremento complessivo di appena lo 0,7%, ha avvertito il presidente dell'associazione Sangalli. Quello della crescita è una sfida che può essere vinta solo con l'unità delle parti sociali e delle istituzioni, ha detto Sangalli, che ha poi invitato la politica ad essere responsabile, ma sentiamolo. Responsabilità ed unità. Noi la offriamo e la chiediamo, ne chiediamo di più alle istituzioni e alla politica tutta, a partire da chi governa. La risposta non può tardare, perché anche nel nostro Paese l'indignazione cresce e chiama in causa la responsabilità di tutti ed anzitutto della politica. Quanto alla riforma fiscale, Sangalli ha ribadito il no di Commercio un innalzamento della l'IRPEF, chi era il fisco sbaglia, poi aggiunge il numero uno di Confcommercio, aggiungendo però che ci sono anche vittime della crisi che davvero non ce la fanno più a pagare troppe tasse e che non meritano di essere condannati alla chiusura delle loro attività. Alla fine è intervenuto anche il ministro dello sviluppo, ma ha detto che il sistema paese ha retto la crisi. Ora crescita e ripresa saranno l'imperativo per i prossimi anni, ma Romani ha anche voluto assicurare la Confcommercio sull'ipotesi di un aumento dell'IVA. Sentiamo cosa ha detto, poi la linea può tornare allo studio. Non è assolutamente intenzione del governo costruire la riforma sull'incremento dell'IVA. Sarebbe uno strumento fiscale che frena la crescita, mentre sappiamo bene che quello che serve è un forte stimolo alla ripresa della domanda interna. E dunque, come sentiamo, il tema del fisco è sempre più centrale in queste settimane. A proposito di evasione fiscale, ci sono i dati della Guardia di Finanza che nei primi 5 mesi del 2011 ha individuato redditi non dichiarati per oltre 23 miliardi di euro, IVA evasa per 5,5 miliardi di euro, un più 64% sul corrispondente periodo dell'anno scorso. I dati sono stati diffusi questa mattina, così il tenente colonnello della Guardia di Finanza Gianluca Campana al microfono di Sebastiano Bariso. Nei primi 5 mesi di quest'anno la Guardia di Finanza ha ulteriormente rafforzato la lotta all'evasione fiscale mediante un innalzamento ulteriore della qualità dei nostri interventi, che ci hanno consentito di denunciare oltre 5.300 soggetti responsabili dei fatti più gravi, quale l'emissione e la dichiarazione fraudolente mediante utilizzo di fatture false e l'omesso versamento delle imposte. Queste indagini ci hanno consentito di sequestrare agli evasori 542 milioni di euro, con un netto incremento rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda l'evasione fiscale internazionale, abbiamo individuato 7 miliardi di euro nei primi 5 mesi di quest'anno, riconducibili al trasferimento fittizio della residenza fiscale di società e di persone fisiche in paradisi fiscali o comunque all'estero, o al ricorso di ulteriori e diverse manovre fraudolente. 11 miliardi di euro sono invece i redditi non dichiarati da imprese e da professionisti, cosiddetti evasori totali, cioè che per uno o più periodi di imposta non hanno presentato le dichiarazioni annuali. Così dunque il tenente colonnello della Guardia di Finanza Campana sui dati della lotta all'evasione e al contrasto all'evasione fiscale. Adesso il Parlamento europeo, che riunito in sessione plenaria, ha dato il parere favorevole alla nomina di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea. Ora la parola passerà ai leader europei riuniti oggi e domani a Bruxelles. Draghi, ancora governatore della Banca d'Italia, dovrebbe succedere a Jean-Claude Trichet, attuale presidente della BCE, a partire da novembre. E allora chiudiamo questa lunga pagina economica di GR24 con la giornata in borsa. Deborah Rosciani. Sì, giornata in borsa piuttosto negativa in Europa. I listini, dopo aver aperto male, hanno allargato le perdite nel corso del prosieguo della mattinata, continuando a risentire del taglio delle stime sulla crescita dell'economia americana, che è stato annunciato ieri sera dalla Federal Reserve, la banca centrale americana, che ha mantenuto i tassi fermi negli Stati Uniti in questo corridoio tra lo 0 e lo 0,25%, livello su cui si manterranno probabilmente, hanno detto gli esponenti della Fed, ancora per un lungo periodo. A deprimere gli indici stamattina è arrivato anche l'indice PMI dell'Eurozona, che a giugno è calato oltre le attese, quindi indici tutti giù. Particolarmente negativa Piazza Affari, sta perdendo quasi 2 punti il FTSE MIB, e questo perché oltre alle storie generali che incidono sul mercato ci sono anche delle storie individuali che stanno colpendo particolarmente Piazza Affari. Sotto pressione tutto il comparto bancario e da assicurativo, Fondiaria scivola del 7,4% dopo aver comunicato i termini dell'aumento di capitale che partirà lunedì, un aumento di capitale che ha avuto il via libera ieri sera da parte della Consob, condizionato per altri a molti paletti, ma in ogni caso titolo in forte scivolata, così come scivola Mediaset del 5,71% dopo la revisione a ribasso delle stime di raccolta pubblicitaria. In fermento il mercato valutario, l'euro diminuisce sul dollaro a 1,4215 e stamattina anche il franco svizzero ha sfiorato l'ennesimo record sulla moneta unica europea. È tutto. Grazie Deborah Rosciani. Adesso cambiamo argomento, lasciamo alle spalle i dati e i numeri della giornata economica, parliamo degli sviluppi sull'indagine P4, la presunta associazione segreta. Il COPASIR, il Comitato di Controllo sui Servizi Segreti, richiederà alla Procura di Napoli gli atti del procedimento penale che la Procura stessa sta conducendo per i reati di favoreggiamento e di divulgazione di segreti d'ufficio. Scoppia intanto il dibattito sulle intercettazioni con il PDL attraverso il capogruppo Fabrizio Cicchitto, che denuncia l'uso indegno che se ne sta facendo sui giornali. Il partito del Premier sta lavorando a un provvedimento che ne blocchi gli abusi. E a proposito dei timori sulla privacy, ecco invece quali sono le priorità del garante della privacy Francesco Pizzetti, espresse oggi nella sua relazione al Parlamento. Come Pollicino lasciava dei sassolini bianchi lungo la strada, così anche noi lasciamo delle tracce nell'etere ogni volta che usiamo i nostri smartphone. Ma se il protagonista della fiaba lo faceva per ritrovare la via di casa, noi così rischiamo di perdere la nostra privacy. È con questa favola che il garante della privacy Francesco Pizzetti, presentando il rapporto 2010 alla Camera, mette in guardia gli utenti dei rischi inevitabilmente legati all'avanzata della tecnologia. Anche il cloud computing, secondo Pizzetti, aumenta i pericoli legati alla perdita e al furto dei dati personali. Per questo, come avviene per i farmaci e per l'eccessiva velocità, è necessaria una maggiore informazione sui rischi legati al mondo del web 2.0. L'autorità quindi formulerà presto adeguate raccomandazioni per i fornitori di questi servizi. Nel mirino del garante anche le modifiche al codice della privacy inserite dal governo nel decreto sviluppo e giudicate inaccettabili. Definito intollerabile infine l'abuso del telemarketing, contro il quale Pizzetti ha promesso pesanti multe. Paolo Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo ora della seconda prova dell'esame di maturità, una versione di Seneca al liceo classico, due studi di funzioni per il compito di matematica, come d'abitudine al liceo scientifico, una campagna per un museo delle arti per l'Istituto Tecnico di Grafica Pubblicitaria. Le iscrizioni sulla seconda prova di maturità si sono rincorse sul web fin dalle 8:20 di questa mattina. Ai siti specializzati sono arrivate segnalazioni di ogni tipo, che spesso partono direttamente dalle aule d'esame. Paola Anania ha intervistato una collaboratrice di studenti.it, Verena Gioia, sentiamo. Oggi alle 8:22 ci è arrivata una mail in cui ci comunicavano l'autore e il titolo della versione. Poi piano piano si vedono arrivare sia messaggi su Facebook sia sul forum, però si tratta per lo più come di una triangolazione, ovvero il candidato scrive al cugino parente amico che sta fuori dalla scuola e lui posta online cercando informazioni utili. A voi sono arrivate anche foto dei compiti? Sì, stanno arrivando foto, le stanno poi postando anche su Facebook, insomma stanno arrivando segnalazioni in ogni forma e modo, manca solo il piccione viaggiatore più o meno. Questo cosa sta ad indicare? L'impressione che si ha è che effettivamente si chiude un occhio se non due, e che forse la modalità d'esame, com'è nel formato attuale, non tiene conto di tutta la tecnologia che è emersa negli ultimi 10 anni. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati nella prima parte. Abbiamo parlato dell'allarme di Confindustria: senza riforme la crescita sarà dimezzata. Il centro studi di Confindustria intanto ha abbassato le stime di crescita per quest'anno. Consumi in frenata, conferma anche l'assemblea annuale di Confcommercio. Il presidente Sangalli dice: di fronte alla crisi chi evade sbaglia, ma va ascoltato. E poi gli esami di maturità, la seconda prova oggi, fuga di notizie su internet, soluzione delle tracce, Seneca, una versione di Seneca al liceo e due studi di funzione per i licei scientifici. Le tracce avevano già le loro soluzioni in rete dopo poco più di un'ora dall'apertura delle aule. E poi l'allarme del garante della privacy, che avverte a proposito dell'uso dei telefonini e degli smartphone: sono sempre localizzati, siamo tutti come Pollicino. Adesso le altre notizie, a cominciare dall'estero e con le tappe di progressivo ritiro dell'esercito americano dall'Afghanistan. Sentiamo. We will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan by the end of this year. I primi 10.000 uomini rientreranno a casa entro la fine dell'anno, altri 23.000 entro la prossima estate, i rimanenti entro il 2014. Così Barack Obama saluta l'inizio del ritiro dall'Afghanistan. In tutto sono 100.000 i soldati americani presenti nel paese. Una scelta vista con favore dal presidente afghano Karzai. Diversa invece la replica dei talebani. Che vi sia una forza grande o piccola, noi continueremo la nostra jihad fino a che l'ultimo soldato straniero non avrà abbandonato la nostra terra. Anche la Francia intanto annuncia un rientro graduale delle sue forze. Conferme sul calendario del ritiro studiato dalla NATO arrivano anche da Australia e Italia. I 1.500 australiani resteranno nella provincia di Uruzgan fino alla fine del 2014, mentre l'Italia procederà a un ritiro graduale del suo contingente di 4.200 uomini. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Situazione complessa intanto al confine tra la Siria e la Turchia. Centinaia di profughi in fuga dall'esercito siriano sono infatti fuggiti in Turchia. Carri armati e soldati delle truppe fedeli al presidente siriano Assad sono ora schierati lungo il confine. Dall'inizio delle proteste, represse con violenza dal regime siriano, ricordiamo che la Turchia ha accolto oltre 10.000 profughi che ora vivono in 5 tendopoli nei pressi della frontiera. Adesso ci spostiamo nel continente africano. Più di un centinaio di persone sono rimaste vittime di stupri e violenze fisiche in un villaggio nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Gli episodi di violenza si sono registrati tra il 10 e il 12 giugno, ma la notizia è stata diffusa e denunciata solo oggi da Medici Senza Frontiere. E adesso in Cina, dove il regime cinese ha liberato l'artista e dissidente Ai Weiwei, sentiamo. Ai Weiwei, l'artista dissidente cinese arrestato nell'aprile scorso, è libero. Ai è stato rilasciato su cauzione dopo 80 giorni trascorsi in carcere con l'accusa di frode fiscale. Ha confessato e restituirà il maltolto, si legge nel secco comunicato diffuso dall'agenzia di Stato Xinhua. La decisione di liberarlo è stata presa anche sulla base delle sue condizioni di salute. 53 anni, Ai Weiwei è tra gli artisti cinesi più conosciuti all'estero. Dopo aver collaborato con il governo cinese alla costruzione dello stadio in cui si svolsero le Olimpiadi di Pechino 2008, ha intrapreso un percorso di aperta critica verso la leadership cinese, tanto attraverso le sue opere che nelle interviste rese alla stampa straniera. La frode fiscale è un capo d'accusa che le autorità cinesi utilizzano spesso in questi casi. L'arresto di Ai era avvenuto al culmine della più vasta campagna contro i dissidenti degli ultimi anni, iniziata in febbraio. L'artista non potrà rilasciare interviste né lasciare la Cina. Antonio Talia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Adesso un aggiornamento, abbiamo parlato nella prima parte del giornale radio degli sviluppi dell'inchiesta sulla cosiddetta P4 e del pressing del PDL contro le intercettazioni. Adesso ci sono le dichiarazioni del ministro della giustizia Alfano, che dice tutte le intercettazioni che leggiamo oggi sui giornali, oltre a non essere penalmente rilevanti, non sono gratis. Il debito accertato nei confronti delle ditte degli operatori telefonici è di 1 miliardo di euro, così il ministro della giustizia Alfano, intervenendo alla tavola rotonda di Confindustria sui costi della giustizia. Un'altra notizia invece riguarda la TV, perché è stato svelato poco fa dove verranno messe in programmazione le prossime puntate di Vieni via con me, lo show che questo inverno ha avuto un grande audience sulla Rai. Lo ha detto Roberto Saviano, sarà sulla 7. Ad annunciarlo con un collegamento telefonico all'evento di presentazione del palinsesto autunnale della 7 a Milano è stato lo stesso Roberto Saviano. Posso dire che è ufficiale, ha detto lo scrittore dialogando con Giovanni Stella, amministratore delegato di Telecom Italia Media. Vieni via con me con Fazio, si farà dunque l'anno prossimo sul canale della 7. Qualche giorno fa aveva lanciato l'SOS al Guardasigilli, ministro della Giustizia, a proposito dell'antimafia di Catanzaro, che è stata abbandonata, ha detto il procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli. Qui le indagini hanno ricostruito anche i progetti delle cosche di uccidere un pubblico ministero, ma comunque non abbiamo avuto ancora un segnale dal ministro, dice a Radio 24, a margine del festival Antimafie Trame a Lamezia Terme. Lo ha intervistato l'inviata Raffaella Calandra. Non abbiamo avuto risposte dirette. Abbiamo appreso recentemente dell'esistenza di un piano sicurezza, di cui però francamente ignoro i contenuti precisi. La situazione allo stato resta una situazione assolutamente insostenibile, sia sotto il profilo degli uomini che sotto il profilo dei mezzi. L'anno scorso abbiamo ricevuto 5 computer, in questi ultimi giorni sono arrivati altri 18. Qualche settimana fa un'inchiesta con degli arresti per un tentativo di attentato nei confronti di un suo collega, di un PM che si occupa delle cosche. Vi sentite un po' abbandonati? In realtà ci sentiamo dimenticati e crediamo di essere dimenticati, diciamo, come parte della Calabria. Tutto ciò che noi abbiamo negli anni richiesto non ci è stato dato. Chiaro che in una situazione in cui di fatto, di fronte a una situazione oggettivamente ingestibile, non interviene nessuno né a livello statale né a livello locale, l'impegno dei singoli magistrati nel loro lavoro e nel compimento di un'attività che li espone a un rischio anche personale, la vicenda del collega è l'ultima di una serie di vicende, è un qualcosa che attiene al merito che bisogna loro riconoscere. Nella prima parte del giornale radio abbiamo sentito l'allarme del presidente di Confcommercio Sangalli sulle imprese artigiane che chiudono. Ce ne sono altre invece che aprono, sono per esempio le storie di immigrati che fanno crescere la cultura di impresa nel nostro paese, premiate oggi col MoneyGram Award. A dare il premio è il presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Sentiamo alcune di queste storie. Ussan gestisce una cooperativa di 34 persone che produce frutta e verdura in provincia di Mantova. Cainda invece ha fondato una società che distribuisce all'estero prodotti italiani riciclati. Poi ci sono Nelu, Maria Angelica, Tomà, imprenditori indiani, romeni, congolesi, partiti migranti e oggi affermati capitani d'azienda. A riconoscere il loro valore è il premio MoneyGram per l'imprenditoria straniera, giunto alla sua terza edizione. Vincitore di quest'anno è Jean-Paul Pugala, senegalese, arrivato in Italia nel 1985 e ha fondato un'azienda di marketing politico che impiega italiani e stranieri. Noi abbiamo circa 22 persone, anche italiani, e quando uno è bravo qui non c'entra lo straniero o l'italiano. Il fenomeno dei dirigenti d'azienda stranieri rappresenta il 7% dell'imprenditoria italiana, 336.000 storie di successo e soprattutto integrazione. Vincenzo Boccia, presidente di piccola industria Confindustria. Questo rientra in una logica di società aperta che include una società imprenditoriale che prescinde dalle nazionalità. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una precisazione del sindaco di Roma Alemanno sulla polemica del pedaggio per il grande raccordo anulare. Castelli è un ignorante, dice Alemanno. Non sa che il raccordo non è una tangenziale ma una strada interna di Roma che è indispensabile per la circolazione. C'è una profonda ignoranza dietro a chi dice queste cose. Se uno è ministro, un rappresentante dell'intera nazione, non si può permettere di attaccare una parte della nazione per esaltarne un'altra. Così l'attacco dunque di Alemanno a Castelli questa mattina in una radio romana. Te la do io, Tokyo. E adesso invece ci spostiamo a nord, a Bergamo, che si prepara a competere con Dubai. Sentiamo perché. Se le ciliegie si possono avere tutto l'anno, perché non la neve? Prolungare il piacere oltre i limiti temporali, si sa, è un'incontenibile aspirazione umana, in barba anche alle stagioni, che siano della vita o in modo più circoscritto della natura, a qualsiasi latitudine, o quasi. E così perché mai la bergamasca Valle Seriana dovrebbe essere da meno di luoghi più roboantemente esotici, tipo Dubai o il Mare del Nord? Ecco quindi che si sogna in grande anche nel profondo nord peninsulare e si progetta in bianco. Fresca fresca, è il caso di dire, arriva infatti in coincidenza con l'Expo 2015 di Milano la neve permanente nella Valle del Bergamasco, un'arena coperta in cui poter sciare tutto l'anno, corredata di due piste innevate artificialmente con più di 600 metri di discesa e con un dislivello di 120, la prima a essere completamente interrata nel pendio. Costo 50 milioni di euro a carico di una società trentina che si chiama non a caso Neveland, con un accordo che coinvolge la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e il comune di Selvino, seguendo per l'appunto le orme di Dubai e anche di paesi come Francia, Germania e Olanda, ma con l'ambiziosa differenza di farne, con orgoglio italico, la pista coperta più grande del mondo. Roberta Giordano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio. Alessio Maurizi in studio, Mauro De Angeli in regia. Vi augurano buon proseguimento d'ascolto su Radio 24. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.